le magiche città. Le magiche città. Resta accanto a me ad ascoltare il brano di Chopin, ad osservare un quadro di Matisse, ci guiderà. Resta accanto a me ad inseguire il tempo di Mozart, ad osservare un corpo di Degas, ci guiderà. Le magiche città di Machagall, le lucide vetrate di Notre Dame, le torri senza tempo scagliate contro il vento, lunghe ombre, le palpitanti forme di Gaudì, le ninfe che fioriscono da Monet, gli spazi allucinati tra notti alcolizzate di Vincent Van Gogh. Le magiche città. Resta accanto a me ad ascoltare un brano di Chopin, ad osservare un quadro di Mondrian, ci guiderà. Le magiche città di Machagall, le lucide vetrate di Notre Dame, le torri senza tempo scagliate contro il vento, lunghe ombre, le luci di città perdute ad est, le strade piene del centro di Parì, gli spazi allucinati tra notti alcolizzate di Vincent Van Gogh. Resta ad inseguire il tempo di Mozart, ad osservare ancora tutti le mani, ci guiderà. Le magiche città di Machagall, le lucide vetrate di Notre Dame, le torri senza tempo scagliate contro il vento, lunghe ombre, le luci di città perdute ad est, le strade piene del centro di Parì, gli spazi allucinati tra notti alcolizzate di Vincent Van Gogh, le magiche città di Machagall. Le magiche città. Le magiche città.